sungguh roh aki wingoto among parsinuangan maraburi luki sepanagana dipanadi komi diang berumo. Saguru di Tuhan ido bareng adu ono maru rohaki apa kopi man umanam nanti masuk usiomi nasi. Sagu